questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare ormai la sua memoria, l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, e parleremo di politica, parleremo di nuove abitudini, parleremo anche di Oscar, un sacco di argomenti in questo Radio Tube. Di manie, cerchiamo di raccontare la televisione vista dai social network alla radio. In particolare questa puntata si potrebbe chiamare di Radio 24 Tube. Perché sì, abbiamo due ospiti molto legati a questa radio. Ce lo come siamo noi concesso per una assolutamente volta. Dunque, loro intanto possono scriverci a et Marta Cagnola oppure et Di Bellasio. L'hashtag non lo cambiamo, teniamo hashtag RadioTube. Sì, non siamo particolarmente no. Hashtag RadioTube va sempre bene. E parliamo siamo di un sacco classici di manie che ci sono su internet, gli scherzi, i selfie. Facciamo un Poi in questi giorni due argomenti fondamentali: Festa della Donna e Carnevale questa settimana. Dobbiamo parlare di questi temi? Beh, allora, Festa della Donna. Pensavo Oscar, Sanremo. No, allora, Festa della Donna, l'8 marzo, anche il 9 marzo, il 10 marzo, sempre Festa della Donna. Certo. Una donna che a me piace tantissimo, Raffaella Carrà. Benvenuta. Benvenuta, Raffaella. Caramba, che sorpresa su Twitter. Chiocciola Raffaella e basta, perché Raffaella ce n'è una. Scusa, quante Raffaella. E nessuno l'aveva già preso aspettando lei. Nessuno secondo si era azzardato a fare. Secondo me il signor Twitter, ti ricordi Albano? Esatto. I signori di Twitter aveva ritirato l'account prima ancora come la maglia, arrivasse. Come esatto. La maglia. Quando è arrivata Raffaella gli hanno detto è tuo. Raffaella Carrà è sbarcata su Twitter con un selfie. Subito un selfie, vabbè, parleremo del selfie, ma a proposito di donne. Subito 20.000 tipo in 30 secondi. Aspettavamo tutti, cioè eravamo solo lì ad aspettare lei. A proposito di donne, sì, donne belle, affascinanti, donne in gamba, donne in politica. Sì. E in questi giorni si è parlato molto di lei, sì. Ci sono stati insomma un po' di casi che hanno riguardato la sua presenza in televisione, a volte involontaria. Maria Elena Boschi. Sì, no, è il ministro che sta emergendo come protagonista di queste prime due settimane di governo Renzi. Ha detto anche la frase chiara: non chiediamo le dimissioni di un membro del governo per un semplice avviso di garanzia. Quindi anche una prima affermazione politica forte del governo. Beh, ma non sei un vero personaggio di spicco se qualcuno non ti imita. Due cose devi avere: uno che ti imita e un fake su Twitter. Io non ce l'ho, invito qualcuno a creare un fake mio, perché sennò mi sento, come dire, poco importante. Ecco, fatelo. E poi anche un'imitazione. Allora, adesso non pretendo tanto. Per tu ce quanto l'hai. Non voglio sapere. Per quanto riguarda lei, Maria Elena Boschi, lei ha però conquistato, secondo me, l'imitatrice principe del momento. Sì, la migliore di tutti, che è Virginia Raffaele. Cosa ha fatto? A Ballarò, perché ha sostituito Crozza, che insomma adesso sta preparando nuove cose, ha iniziato nuove cose in questi giorni. Ha fatto la sua imitazione di Maria Elena Boschi. Io non so se tu l'hai già vista, io te ne mostro un pezzettino. Ma te l'ho segnalata io. Dai, l'ho già vista. Ma lo so, svegliamo che ti piace un po' di molto trucchi. Lei. Sì, sì. Vabbè, sì, te ne mostro un pezzettino alla radio. Su questo governo ci sono molte aspettative, anche perché avete promesso 3 riforme in 3 mesi. E vede, i cittadini non possono più permettersi il lusso di aspettare. Per essere chiari, subito 3 riforme. Riforme del lavoro, con la semplificazione delle norme d'obbligo di rendicontazione online, la riduzione del 10% dell'onere per le aziende, riforma del fisco, sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Dopodiché, riforma della pubblica amministrazione, innovazione istituzionale e organizzativa e subito sblocco di 60 miliardi della cassa depositi e prestiti. Solo con questa chiarezza il governo potrà portare a termine il suo compito. Scusi se insisto, ma voi come contate di riuscirci in 3 mesi, concretamente? Concretamente... Come no, Beh, a questo punto, aria nei capelli, capelli biondi, l'occhio chiaro, devo dire che è perfetta. Sai che ci sono state delle polemiche in rete, perché non ce le facciamo mai mancare, Daniele? Perché qualcuno cattiva, ha detto, ma buona. No, perché la rete dibatte, dice, ma perché avete apprezzato questo sketch di Virginia Raffaele e invece avete criticato voi, un voi generico, questo mondo, quello delle Iene di Enrico Lucci che l'aveva un po' avvicinato, non lo so, a me ha fatto più ridere questo, però decisamente, però vabbè, insomma, sappiamo che invece a Cruciani senza accento toscano ormai vabbè. No, non vai da nessuna parte. Secondo personaggio della settimana, beh, il personaggio di tutte le settimane, Diego Bianchi, cioè, sì, non, cioè Zoro è personaggio, l'accento è romano, questa volta l'accento è romano, abbiamo detto festa delle donne, carnevale, sì, Diego Bianchi ha fatto lo scherzo di carnevale. E non apriamo il dibattito sugli scherzi, si possono fare o non si possono fare, perché si possono fare. Si possono fare, sai che ne parleremo ancora? Ti anticipo che c'è ho ancora... Ho perso la scaletta dove ne riparliamo. No, ne allora, riparliamo. Lui si è autofatto, praticamente è uno scherzo selfie. Sì, è uno scherzo selfie, ha organizzato uno scherzo, ci sono cascati tutti, irruzione finta, ma non si vedeva, della Guardia di Finanza nella redazione di Gazebo che... prende un computer, sequestra un computer e loro postano. Vabbè, sentiamo cosa è successo, sentiamo poi come l'ha raccontato a Gazebo. Come abbiamo reagito a quanto è accaduto oggi, quanto avete appena visto intorno alle 3:30 circa del pomeriggio, superati quei 10 minuti, abbiamo preso la situazione in mano così. Mandate Twitter. Subito la foto viene condivisa su Facebook dai nostri follower, da chi ci segue, da chi ci vuole bene. Non chiede se ci sono problemi qui. La Guardia di Finanza non ha niente di più. Quale piccone gli ha mandato? Segue che l'evento. Succede alla Guardia di Finanza? Solidarietà accompagnata. La Guardia di Finanza sequestra i PC. Dice, se stanno allarmando tutti a Mazzini. La notizia monta. E quindi? Briga Zebo. Partito l'hashtag Briga Zebo. Capito? L'hashtag Frigazebo, basta, subito panico in rete. E loro, quando si è visto che facevano vedere il dietro le quinte, quando lo organizzavano, dicevano, ma è carnevale, ecco, ma è carnevale, e nessuno se l'era ricordato. Vabbè, milanesi, perdonati, perché sì, beh, cioè, non arriva... perché non era ancora carnevale, ecco. Beh, numero uno, assolutamente lui straordinario. Molto, lui molto, molto, autocommentandosi anche. Però la classifica dei Twitter di Gazebo è ormai un, io già un vorrei, genere televisivo. Sì, vorrei ufficialmente invitare Secondo Zoro a Radio Tube. Secondo me c'è gente che di lavoro fa il segnalatore di dibattiti avvenuti su Twitter. Io lo adoro dai tempi del Grande Fratello, quando commentava in rete il Grande Fratello. Solo che da quando c'è Renzi a Palazzo Chigi bisogna partire molto presto la mattina, alle 6:40 sì, mette le foto, sì, mette inizia in i dibattiti, tutti, fa le Twitter interviste, poi smette perché deve anche far capire che lavora. Però, insomma, però vabbè, bisogna svegliarsi presto, farsi i selfie presto, i selfie. I selfie, parliamo finalmente dei selfie. Beh, siamo giunti alla 23ª puntata per parlarne. Aspetta, non abbiamo tempo in questo momento, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico, ci risentiamo tra qualche istante, sì, poi ci facciamo un sacco di selfie nel prossimo blocco di Radio Tube. Radio Tube. Daniele, ce la facciamo un selfie? Però non mi hai portato all'Oscar. No, all'Oscar non ti ho portato, cioè, ma non ci sono andata neanche io. A Sanremo. Ah, non ci sei andata, non neanche, andata neanche io, no, però ero qua in radio, mi sono esatto, fatta tutta la notte, me li sono guardati tutti come se fossi lì. Mi sono seguita anche la conferenza stampa di Sorrentino. Sei entrata nel vivo. Però sì, noi parliamo di un selfie particolare, intanto, di un selfie da record. Sì, parliamo di un selfie da record perché, vabbè, insomma, questa cosa del selfie era stata assolutamente così utilizzata come spunto. È stata utilizzata anche a Sanremo perché c'era Sarcina che si faceva i selfie. È stata utilizzata anche nella notte degli Oscar. C'è stato questo selfie super twittatissimo. Intanto, diciamo, un autoscatto. Un autoscatto, sì, ma anche perché l'abbiamo sempre fatto, però ma... si fa col braccio lungo. Sì. Allora, cosa è successo? Ah, sì, ci sì, sono perché... delle regole anche. Eh beh, sì, certo che ci sono delle regole, perché bisogna allontanare abbastanza il braccio. A me viene per farsi spesso la... in mente in ascensore, quando non so cosa fare. Sai che le signorine che si vestono bene lo fanno il selfie in ascensore tutti i giorni per far vedere come si vestono? Ah, non lo sapevo. Ma secondo forse te... non lo faccio più. Ma secondo te... Enrico Pagliarini. Sì. che gli ascoltatori della D24 conoscono, se li fai i selfie... Ma non lo so, ce l'abbiamo al telefono o di persona? Ce l'abbiamo di persona. Di persona personalmente. Buonasera, Enrico. Buonasera, ciao a tutti. Te li fai selfie? Io sto ridendo perché effettivamente io, allora, ufficio, cioè di quelli fatti bene, mai. Cioè, sì, ma, e allora, io mi sono fatto bene, ma... No, come dice Marta, cioè con okay. Le braccia, la posa fatta bene, cioè, ma però non mi risulta di comunque di avere una foto selfie, si dice la foto selfie? Aggettivo. Allora, mi faccio ogni tanto degli autoscatti, magari sono in giro, vedo che c'è una bella cosa, lo dico, voglio che poi i miei amici vedano che io ero lì vicino con questa... Poi penso sia un po' lo spirito, cioè, Sì, però di solito ho una fotocamera di quelle classiche, sì. Quelle che se le appoggi stanno in piedi, perché effettivamente lo smartphone se lo appoggi cade, no? Sì, sì. Per quello che serve quello la mano. Esatto, vedi, l'utilità delle... E quindi io uso la fotocamera, ci sono anche i treppiedi per smartphone. Certo, però dai. Cioè, se tu devi girare con tre piedi, non parla. Sì, no, sembri un po' un matto. No? Sì. Ecco, allora in quel selfie lì degli Oscar, il problema è stato con quale telefonino. Allora, chi metti ordine. Pagliarini, il nostro conduttore preferito di 2024? Sai che oggi ci pensavo, ma da quanti anni? Da un'eternità. E fra un po' arriva 2024. Esiste, sì. Sì, infatti, quello è uno dei problemi che ci stiamo ponendo, perché quando arriverà il 2024. È come Ridley Scott. Però ci sono ancora 10 anni, dai. Sì, no, infatti. No, esiste dal 1999. Ah, io sono entrato in pista un po' dopo, ho studiato però, per qualche anno, ma nel 2002-2003. Beh però, e quindi ne hai viste di tutti i colori, sì, hai visto arrivare tutto, hai visto anche arrivare gli smartphone e hai assistito alla guerra tra smartphone. Ah, su quello non c'è dubbio. Si potrebbero, non penso che ci siano spot pubblicitari come la famosa battaglia tra Coca-Cola e Pepsi, yes. Ma tra smartphone non mi risulta che ci siano mai stati spot con la guerra degli smartphone. Di fatto è una guerra. Allora, quella che abbiamo visto questa settimana è una guerra degli smartphone. Poi, chi l'abbia vinta non si sa. Eh sì, perché allora, adesso spieghiamolo. Spieghiamo. Selfie con i più grandi attori in platea, quelli che ci stavano perlomeno nella foto, con tanto di photobombing, perché adesso c'è il photobombing, cioè quello che capita dentro un po' per far lo scherzo, per del caso, fratello della migliore attrice Lupita. Tutti record di retweet. Record di l'obiettivo retweet, era quello. Certo, perché batte questa foto che era stata twittata da Barack Obama e Michelle Obama. C'è la foto ovviamente del selfie, ma c'è anche la foto della foto. Cioè si vede Bradley Cooper con la mano e il telefonino che scatta la foto. Ma chissà perché. Ma perché? Ma arriviamo ai nomi. Esatto. Ai ma nomi. È sicuramente un caso. Sarà un caso, ma no, effettivamente qui c'è un mix di cosa organizzata, sì. Che si dice tecnicamente product placement, quindi yeah. Qualcuno che paga per mettere il prodotto in una scena, sì. Che sia film, che sia un programma televisivo, eccetera, eccetera. In questo caso è stata la Samsung che dicono, ora non c'è una stima ufficiale, ma si dice che abbia pagato una roba come una ventina di milioni di dollari, che sono un sacco di soldi. Beh, un sacco di soldi però per uno spot così, per beh, una sì, cosa twittata milioni di volte. Con una parte del ricavato, se non ho capito male, in beneficenza. Pare. Quindi, da una parte c'è l'organizzazione del product placement. Io sono l'azienda, pago e dico, guardate che dovreste fare la fotografia col Samsung. In questo caso era un Note 3. Quindi nemmeno il nuovo che è stato presentato da pochissimo. Per essere più reali. Certo. Per essere più reali. Esatto. Insomma, loro puntano molto, soprattutto negli Stati Uniti, su questo Note 3. Anche perché ha uno schermo grande. Probabilmente, senza problemi, per il selfie funziona meglio. Perché è un display molto più grande, quasi 6 pollici, quindi ci stanno più persone. Grande, no? Come tecnico. Sì. E poi, no, però c'è chi dice che poi molte di queste cose, anche questa foto, sia nata un po' così sull'euforia del momento. Sicuramente la Ellen, cioè la presentatrice, poi non so gli altri, è una utente di iPhone. Prima e dopo gli altri selfie li ha fatti li con un altro smartphone. Ha fatto dei redditi con un altro sì, perché smartphone. Chi non usa la Twitter guerra Apple, Samsung, non sa che può apparire twittato da iPhone, twittato da esatto. Android, twittato da BlackBerry. Sì, sì. E quindi gli altri tweet che ha fatto c'è scritto twittato da iPhone. Esatto, esatto. Ah, una cosa che possiamo dire per chi non usa Twitter, oltre a che la fotografia è stata fatta dal particolare telefono, particolare smartphone, quindi si vede la marca dello smartphone, molto spesso si riesce a vedere, dipende dalle impostazioni, ma quasi tutti non vanno a cambiare le impostazioni, si sa anche da dove viene fatta la questo foto. Questo è un grande problema. Attenzione, pericolosissimo. Attenzione alle fidanzate, di dire la verità, fidanzati. Subito anche. Bellasio, chissà perché subito. No, lo dice dicevo perché... per gli utenti. Tornando al product placement che ha fatto successo o non ha fatto successo, poi in rete molti hanno detto, sì, capito, però ha fatto... prima e dopo ha fatto delle fotografie con un altro smartphone. Non è la prima volta che succede, perché altre aziende hanno messo in mano uno smartphone ad una personalità, ad un VIP, soprattutto negli Stati Uniti, e poi questa o quello, magari dietro le quinte o il giorno dopo, facevano le fotografie con l'iPhone. Non ci giurerei, ma Alicia Keys con BlackBerry deve ad esempio, avere, ad ecco, esempio. Combinato una cosa del genere. Combinato una roba del genere. Tra l'altro... sì. Nokia, che non c'entrava niente perché così abbiamo parlato par condicio, par condicio, abbiamo nominati quasi tutti. Ha fatto una cosa divertente perché praticamente siccome un paio di questi selfie erano, come si dice, blurred, cioè tutti sfocati, sfocati, Nokia ha detto vabbè, ma a questo punto entriamo anche noi nella guerra dei tweet e ha fatto un tweet scherzoso dicendo ah ma guarda come è venuta bene sta foto, se la facevi sfocata. Con Nokia, se l'avessimo fatto con Nokia, che è, insomma, diciamo uno dei modelli di punta 41 megapixel, sono cose che soprattutto su Twitter, devo dire, le aziende di tecnologia usano fare, cioè prendersi un po' in giro dicendo, e Nokia devo dire che ultimamente lo sta facendo, forse anche perché, essendo Nokia stata acquistata da Microsoft, è entrata un po' più nel mood degli americani, che queste cose le fanno un po' più spesso rispetto a noi europei, che siamo un po' più seriosi, no? Bello, bello, mi piace parlare con Pagliarini. Bellissimo. Che siccome lui non è di solito un appassionato di social, lui... ah, non è appassionato. No, sono discretamente di Twitter, no? Twitter mi piace ecco, molto, di altre cose un po' meno. Sì, questa è una trasmissione un po' sbilanciata. Allora, però siccome siamo Twitter, partiti sui selfie, sì, io vorrei... farvi ascoltare un pezzettino. Credo volessi fare un selfie. Dopo lo facciamo. Nella pausa lo facciamo. Vorrei farvi ascoltare un pezzettino di un audio di una di un youtuber, di una star di YouTube, sì, che si chiama Francesco Sole. Mitico. Straordinario, bravissimo, un ragazzino che ha fatto un video sui selfie spiegando cosa succede quando ci si fa un selfie e spiegando come si fa un selfie. Noi abbiamo preso un pezzettino, io lo trovo delizioso. Mi sono lavato i denti, sono andato a letto e le ho inviato una foto. Ma quando mi sono svegliato, lei non mi aveva mandato niente. Mi sono lavato i denti, poi sono uscito in bici e le ho mandato una foto. Ho studiato e le ho inviato una foto. Denti, letto, foto. Denti, studio, foto. Denti, albero, foto. Denti, letto, foto. Denti, panchina, foto. Denti, studio, foto. Denti, letto, foto. Ma quando mi sono svegliato, lei non mi aveva mandato niente. E nel giro di una settimana avevo finito il dentifricio e lo spazio nella galleria del cellulare. Quando mandiamo un selfie a qualcuno, lo pubblichiamo su Instagram o su Facebook, non per forza perché vogliamo sembrare più fighi, a meno che non perdiamo ore a photoshopparci. Quando mandiamo un selfie a qualcuno, abbiamo semplicemente bisogno di attenzione, racchiudendo in una foto un ciao, io stavo pensando a te, tu, che non abbiamo il coraggio di scrivere. Pubblicare un selfie su Facebook è narcisismo. Inviare un selfie a qualcuno è bisogno di attenzione. Avere un profilo di Instagram con solo dei nostri selfie, beh, quello è non avere gli specchi in casa. Oh, io l'ho conosciuto uno che ho detto, però è carino. Poi ho guardato il suo profilo Instagram, aveva solo selfie e ho detto, ma no, ma per favore. Ma no. Anche perché, sai, un ventenne ancora, uno con qualche anno di più, ho detto, no. Uno che si fa profilo Instagram, cioè, di selfie. Bravo questo ragazzo. Sì. Bravo molto, questo ragazzo. Ha fatto un montaggio fatto bene, insomma, magari un professionista. È già stato, è già stato anche cooptato dalla TV. Lui, un po' stile Iene, mi sembra. Lui è già stato cooptato dalla TV e proprio da Mediaset. Quindi, insomma, quelli bravi non se li fanno sfuggire. Quindi, Enrico, tu che sei... che ti occupi di tecnologia appunto da ormai tantissimi anni a Radio 24 nel 2024, ma gli ascoltatori te le chiedono queste cose, ti chiedono, qualcuno ti ha mai chiesto qual è l'app migliore per farsi selfie? Ah no, su questo sì, è un classico, cioè, le domande crescono di settimana in settimana, quindi sul numero di domande e sulla qualità delle domande non c'è dubbio. Sulle risposte, magari a volte, tentenno un po' perché non le so. Perché... lui è un esperto di tecnologie, però su questo è un po' reticente. Sulle applicazioni social sono un pochettino mancante, in alcuni momenti mi perdo qualche cosa. L'altro giorno mi sono letto un po' di cose per aggiornarmi sulle ultime relative ai social, effettivamente... la crescita delle applicazioni è una cosa che è veramente incredibile, quindi c'è questa divaricazione, no? La tecnologia delle macchine, la tecnologia dei servizi, delle applicazioni, sì. E c'è questo scontro che avviene sui social network, dove si parla un po' appunto di qual era la macchina che ha fatto quel selfie, ma anche delle regole per fare un buon selfie. Sì, e comunque bisognerebbe diventare esperti di applicazioni, solo di applicazioni. Straordinario. E questo è un buon consiglio. Straordinario. Sì, però devo dire che il numero di applicazioni è talmente e incredibilmente elevato che effettivamente diventa un po' difficile tenerle sotto controllo. Ad esempio, su social network una delle grandi mode è: prova a fare un'applicazione che in qualche modo o scimmiotta altri social network, oppure si diventa un corollario di un altro social network e tento di fare i soldi come altri hanno fatto. Straordinario. Enrico, però bisognerebbe essere finanziati dai venture capitalist americani, che si parlano tra di loro e poi si comprano a vicenda. Sempre con ironia, come dicevi prima. Sì, sì, certo. Torni a RadioTube da noi, sì, Enrico. Sì, anche perché il sabato è un giorno favorevole, no? Ecco. E la domenica pure. E la domenica sì, pure. Sì, certo. Appuntamento con 2024? Anche in quel caso sia il sabato che la domenica. Orario? 15:23. Oppure? Oppure il podcast di 2024. Io sono un tifoso del podcast. Sì, e ci rivediamo molto spesso da qui fino al 2024. Straordinario. Sì. RadioTube. Rieccoci insieme per la seconda parte del nostro RadioTube. Beh, questa volta abbiamo deciso di parlare molto di Radio 24, no? Non per essere autoreferenziali, Daniele, ma abbiamo dei conduttori... No, quando ci vuole, ci vuole. Insomma, quando i conduttori di Radio 24 sono i migliori commentatori, non possiamo esimerci. No, perché sembra che nell'ultimo periodo praticamente la politica si sia data appuntamento, no? Tutte le mattine bisogna partire nel dibattito politico-culturale nazionale da una trasmissione. Sai qual è la verità? Che tutti si svegliano come me a quell'ora lì, sì, salgono in macchina a quell'ora lì, vogliono ascoltare la radio a quell'ora lì e quindi è lì che si fa notizia. E quindi per avere le notizie devi partire nel dibattito culturale da Mix 24, quindi da un maestro che abbiamo al telefono. Sono particolarmente onorata. Buonasera Giovanni Minoli. Buonasera a voi, buonasera, complimenti. Grazie. Beh, grazie Giovanni. Io a me mi sento un po', insomma, non l'avrei mai detto nella mia vita. Esatto, comunque, infatti ci proviamo. Comunque, dai, facciamo un faccia a faccia con Minoli. Un faccia a faccia a faccia, perché siamo in tre. Esatto. Un faccia a faccia a faccia. Faccia. È un nuovo format. Le ho messe in fila le polemiche, Zaia sulle regioni che falliscono, Marino che blocca Roma, Della Valle su RCS, Passera il nuovo partito, Fabiola Gianotti, insomma tutto ciò anche che poi... Squinzi, certo. E tutto, praticamente quello che poi il giorno dopo c'è sui giornali, la mattina prima c'è a Mix 24. Vabbè, ma come avete detto giustamente voi, a quell'ora la mattina uno ascolta e se uno è un po' attento magari riesce a dare insomma qualche notizia. Noi parliamo tanto di social in questa trasmissione, sì. Giovanni, tu che rapporto hai con i social, con Twitter? Io seguo l'account di Mix 24. Normale, non fanatico, cioè senza nessuna nevrosi da Twitter. E quindi? Seguo e poi rifletto. Ecco. Non penso che sia importante non eccedere nella nevrosi da velocità. Allora, Che effetto ti fa allora un premier che twitta, un premier che già alle 6:40 del mattino twitta? A parte che non so se è vero, si vede che lui si sente bene così. Io penso che il tempo della riflessione sia importante come il tempo dell'azione. Ecco, e secondo te per il momento quello che viene percepito all'esterno è più l'irritualità o più il dinamismo di Matteo Renzi? Ma entrambe le cose, è un fatto generazionale anche, penso che è un seminativo digitale. Seminativo, è vero, è a metà strada. E quindi non è proprio un nativo digitale, però naturalmente nell'epoca in cui si imparano le lingue, ho imparato anche quella lingua. Verissimo. Io noi teniamo sempre d'occhio quello che diventa virale, diffusissimo in rete. Sì. Questa settimana la polemica su Matteo Renzi, perché qua la polemica a fin dei conti è quella che fa parlare di più, è stata quella della canzoncina. Beh, intanto ascoltiamo un pezzettino di questo audio che è stato, io l'ho preso dal sito del Fatto Quotidiano, insomma è stato ripreso un po' da tutti. vabbè, allora... Meno ne grave, io no, dico io subito. Anch'io, io dico, secondo me, beh, quando arriva una personalità in genere, i bambini, io non mi sono... A parte che è un format obamiano preso e portato in Italia, al limite questo può sembrare un po' grottesco, però insomma a me non mi pare una cosa grave. Ma io penso che veramente questo sia il limite del virale della rete, la superficialità della riflessione. Penso che se dobbiamo essere virali è molto più interessante riflettere su sulle reazioni che ha dovuto subire Fiorella. Perché quello mi sembra molto più importante, è molto più significativo in negativo di quello che capita sulla rete. Ha tirato fuori insomma un sacco di reazioni, io sono rimasta molto stupita. La anche cattiveria. Perché... Ma perché sì. La gente è cattiva, invidiosa e cattiva, e la rete ti fa sentire il padrone del mondo, e non lo sei. Io devo dire la verità, sì, io nella mia timeline, cioè nelle persone che io seguo, non avevo avuto questa sensazione perché non avevo visto. Poi ho cominciato a vedere Twitter retweetati, vedere reazioni, io sono rimasta veramente un po' stupita, anche perché ero convinta che Fiorello fosse comunque un personaggio amato in maniera abbastanza trasversale. Fino a un'ora prima. È perché questa è proprio l'invidia e la cattiveria che si esprimono, come dire... Senza rete e senza dazio da pagare. Forse anche un po' il periodo storico in cui, ce lo diceva una volta Paolo Virzì, abbiamo parlato con lui diceva Twitter, che in particolare anche più di Facebook, è un po' il coperchio che quando viene scoperchiato tira fuori gli umori che stanno sobbollendo nel paese. È per questo che non... che penso che questo è più interessante da, ma non nel paese, non lo so, nella individualità dell'onnipotenza, nell'io che pensa di essere noi, insomma è una riflessione. Cioè nella rete ci si sente subito si sente portavoce super, di masse. Superman. Ah, okay. Si sente Superman, invece sei uno dei tanti. Ma secondo te questo Superman? Questo effetto è paragonabile a quello che crea la televisione o è più grave, più forte? No, non grave, è un giudizio morale. Io non lo so se è più grave o meno grave. La televisione da che punto di vista? La televisione, come diceva Dan Rather, è come una bomba atomica a scoppio ritardato. Se uno non fa attenzione si allevano generazioni di zombie incontrollabili, perché è un sistema di valori trasmesso, che si voglia o che non si voglia, che si faccia finta che lo si capisce o si faccia finta che non lo si capisce, però è un dato. E quindi la televisione è più forte, molto più forte, perché lega immagine, emozione, cuore e cervello, insomma. Per quanto riguarda, volevo fare un passo indietro tornando a Renzi, visto che ultimamente ci ha appassionato particolarmente, non riusciamo a fare una puntata senza parlare di lui perché in rete... Ma questo sarà all'insù megalattico e all'ingiù uguale. È così. Un Renzi che questa settimana ci è piaciuto molto è quello, come sempre, interpretato da Crozza. Noi tutte le settimane abbiamo avuto Crozza. Crozza è un grandissimo sempre. Abbiamo avuto finora il Crozza di Ballarò, adesso abbiamo anche il Crozza che torna sulla 7. Noi ci siamo innamorati in particolare dello spot. Giovanni, te lo facciamo vedere alla radio, agli ascoltatori. Perché lo spot era questo, per chi se lo fosse perso. Signori miei, vorrei cominciare subito con la frase che diceva il grande filosofo tedesco... Stop! Matteo, ma cosa fai? Non va bene? Ti ricordi cosa avevamo detto? Niente cultura. Cosa sei, un intellettuale di sinistra? No, non c'è pericolo. Dai, devi usare qualcosa di più popolare, più vicino alla gente. Ok, ho capito. Ci sono. Hai ragione. Signori miei, come diceva Gigliola Cinquetti, non ho l'età. Perché ricordatevi, meno Marx, ma più marketing. Se fossi mio figlio ti darei Mediaset. Ma perché non sei mio figlio? Perché? Ma insomma c'è qualcosa che li unisce, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, qui raccontati da Crozza? Ma penso proprio di sì, nonno e nipote su tanti versanti. Penso senz'altro, ma perché? Perché Renzi è post-ideologico. E quindi è una sinistra post-ideologica che pensa e spera, e speriamo anche per l'Italia, che i fatti siano più forti delle interpretazioni ideologiche. se sarà così, vincerà quel barbaro rivoluzionario che vorrebbe essere, se no sarà un letto bis. E secondo te regge di più l'intesa sulle riforme tra Berlusconi e Renzi o quella sul governo tra il PD e il nuovo centrodestra? Boh, io penso che tra Berlusconi e il nuovo centrodestra ci sia solo un gioco delle parti. Ah. Abbiamo parlato nel... Divisi per colpire assieme. Non è male questa. Ovvio, sì, si allarga lo spettro del consenso. Però se le sono dette, si sono... Per fortuna loro, perché se non se le dicevano non ci credeva nessuno. Io stavo spulciando l'account di Twitter di Mix24, che è @Mix24_R24, e vedevo che tutte le mattine, Giovanni, più o meno tutte le mattine ti fanno delle fotografie con gli ospiti. Abbiamo parlato dei selfie nella prima parte di questa trasmissione. Insomma, alla fine tocca anche a te apparire su Twitter in fotografia. È una cosa che io la trovo molto, molto carina e mi io piace non molto. Non tanto, sinceramente. No. Ma quella è una mania di Sara Tardelli, che generazionalmente appunto sta in questo range, quindi vuole vedere come nasce la trasmissione, no? Non è un modo anche per partecipare. Ma sarà che ho fatto tanti e troppi anni di televisione e per me invece il mistero della voce, molto bene, non lo so che faccia avete, però mi piace immaginarle. Non so se vorrei vederle. Accidenti, infatti non ti abbiamo ancora incontrato a Milano, ma non ci siamo ancora incrociati, Giovanni. Noi, però la voce l'avete molto interessante. Questa è una cosa che però apparenta la radio con la rete, fa esatto, sì che la radio sia la stessa cosa. Sì. Entrambe ingannano, ma nel nostro caso no. Nella siamo bellissimi uguali, te lo diciamo, bene, te lo assicuriamo. Mi fa piacere. Te lo assicuriamo. Vabbè, mandate una foto di nascosto. Giovanni, spesso, lo dicevamo in apertura di questo blocco, il favorito dall'orario sicuramente, ma non solo, a Mix24 passano delle notizie che diventano poi il tormentone del giorno. Onde perché nascono da lì come un sasso gettato nello stagno e poi tutto il giorno noi le vediamo in tempo reale su Twitter perché ci stiamo davanti tutto il giorno, certo. Ma non solo. In particolare, io adesso vorrei far ascoltare agli ascoltatori un frammento di Mix24 inconfondibile, accaduto pochi giorni fa. Dopo questo frammento di audio si è scatenato il finimondo. Eccolo qua. Ma se non ha questi soldi se ne va? Ma guardi che... mi dica un sì o un no, che si capisce. No, io le dico quello che ho da dirle, non rispondo a delle domande che ma non hanno precisa. Senso fatte così. No. La mia risposta è molto chiara. Io se la fanno tanti. Io da domenica blocco la città. Dica una cosa precisa. Quindi le persone dovranno attrezzarsi, fortunati i politici del palazzo che hanno le auto blu, loro potranno continuare a girare. I romani invece non potranno girare fin quando allora, la politica non si sveglierà. Domenica si blocca Roma. E qua c'è il giornalista che l'ha tirato fuori la notizia. Noi prendiamo appunti, noi prendiamo appunti perché così si fa. Sai, bisogna fare le domande e insistere per avere le risposte. Cioè, la domanda vera è la terza sullo stesso tema, non è la prima. È verissimo, in crescendo. Certo, l'effetto è stato pazzesco, immediato. L'effetto è stato forte perché era una domanda precisa, c'è stata una risposta precisa che non so se poi è stata dettata dalla rabbia del momento, dall'emozione sua, non so, dalla tensione che aveva, però certamente ha detto veramente una cazzata. E i social network non gliel'hanno esatto, perdonata. Questo è il punto, la velocità di trasmissione della cosa a volte la forza del faccia a faccia è tutta lì, domande vere, precise, risposte che uno esige. Devo dire che a questo punto il faccia a faccia è sempre attuale, il faccia a faccia si sposa ancora una volta anche con io la rete. Io avrei una curiosità, una domanda qui non sei riuscito a ottenere risposta insistendo e cercando di averla in ogni modo, te la ricordi? Non me la ricordo più. E quindi forse non c'è stata. Sono molto contenta di aver avuto Giovanni Minoli a Radio TV. Mi fa un po' impressione poi dirlo. Effetto, siamo diventati grandi. Mi fa veramente... Non so se è un vantaggio se diventati grandi. di questi tempi bisogna avere almeno 39 anni. Sì, anagraficamente mai, quindi non, alla radio si può nascondere. Grazie mille, grazie e buona serata. Ciao, grazie. E noi riascoltiamo tutte le mattine Giovanni Minore alla Mix 24, Mix 24, Mix 24 la storia. Dobbiamo dirlo alle 9 del mattino, poi lo sanno tutti. Sì, lo sanno. Alle 9 c'è Mix 24. Quanto abbiamo parlato di Radio 24 in questa puntata? Siamo stati seri, ficcanti, abbiamo parlato di tutte le cose che riguardano la rete e anche di qualcuno che riguarda la televisione. RadioTube. E siamo arrivati all'ultima parte del nostro RadioTube. Abbiamo parlato di selfie, abbiamo parlato di politica, però l'avevamo promesso anche la scorsa settimana che avremmo continuato a occuparci di esteri. A me piace questa cosa che ogni tanto andiamo in giro. In fondo i social network servono a raccontare quello che succede in posti molto lontani. E il secondo tema più importante nelle ultime settimane sui social network dopo l'Ucraina è stato il Venezuela. Parliamo troppo poco, perché in realtà poi è un paese molto vicino all'Italia per tante ragioni, però chissà come mai tendiamo a dimenticarci, noi già che ci occupiamo poco di quello che succede fuori dai confini italiani, distratti dalle tante cose che ci succedono. Perché prima c'era un personaggio particolarmente mediatico e anche particolarmente discusso, anche amato per certi versi in Italia, che era Hugo Chavez. Adesso da un anno a questa parte non c'è più. E però stanno succedendo tante cose che passano appunto anche attraverso i social. Per cercare di capirle insieme abbiamo un ospite. Io proclamo subito il conflitto di interessi, c'è parentela. Caramba, che sorpresa, come caramba. Però posso dire che è una persona che conosce perfettamente il Venezuela, oltre a conoscere perfettamente l'Italia, perché pur essendo di origine italiana è venezuelana. È anche una giornalista che ha anche studiato negli Stati Uniti, perché è laureata alla Columbia University in giornalismo, quindi ha tutti i titoli per parlare. Buonasera, Clara Martinez Turco. Clara, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te di essere con noi. A me piace molto perché Clara è venezuelana con un bel accento piemontese. Questo ci fa capire a subito. A me Piemonte è molto caro, come sai. Clara, si parla molto poco di Venezuela e si vede molto, e tra poco ascolteremo anche degli audio, lo sforzo da parte soprattutto dei giovani venezuelani, anche dei giovani venezuelani che sono in giro per il mondo come te, di far capire cosa sta succedendo nel paese. C'è proprio quest'ansia di comunicare quello che succede in un paese che non riesce a far uscire all'esterno la situazione, se non per alcune immagini, ma perché non si riesce a far passare il messaggio di quello che sta succedendo in Venezuela, Clara? Allora, si riesce a far passare il messaggio in altri paesi che non sono l'Italia, ovvero gli Stati Uniti ha iniziato ad avere un particolare interesse in questo dopo che la CNN è stata sbattuta fuori dal Venezuela, cioè come canale anche i giornalisti. Perciò sui social media quello ha avuto una grossa importanza, anche perché giornalisti come Stephen Conrad, Liquid Newsroom, ha il Venezuela a cuore, lui ha 100.000 seguitori su Twitter e ne ha parlato parecchio. Purtroppo in Italia non è il caso, in altri paesi europei come la Spagna sì, però in Italia ancora no. E dobbiamo dirlo che il Venezuela invece è molto popolato da persone di origine italiana che invece avrebbero molta voglia di far capire quello che sta succedendo, come ad esempio è il tuo caso, Clara. Certamente, in Venezuela ci sono circa 1,5 milioni di italo-venezuelani, questo secondo il Ministero degli Affari Esteri italiano. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto la scorsa settimana ad Antonella Scott sull'Ucraina. In 140 caratteri, che cosa sta succedendo in Venezuela? Ci sono delle proteste iniziate dagli studenti contro il governo, con 19 morti e 1,600 arrestati. A proposito di social media, lo dicevamo, i ragazzi hanno capito, ormai i ragazzi sanno in tutto il mondo che è il metodo più rapido per far passare un messaggio ai loro coetanei e non solo. Noi parliamo spesso di video virali, video che si diffondono in rete. In questo caso ci sono dei video che sono stati creati da studenti venezuelani proprio perché vengano diffusi i ragazzi che chiedono, che hanno montato dei video che parlano in prima persona e che chiedono diffondete questo video, mostratelo. È il caso ad esempio di un video di una ragazza che ha studiato anche lei come Clara negli Stati Uniti all'Università della Florida, Andreina Nash, 21 anni, ecco un brano del suo video. ¿Qué ha estado pasando en Venezuela en los últimos días? El 12 de febrero del 2014, Día Nacional de la Juventud en Venezuela, millones de estudiantes universitarios tomaron acción y salieron a protestar pacíficamente por la crisis social y económica que ha causado el gobierno ilegítimo en Venezuela. Pero una de las razones principales por lo que los estudiantes han tomado acción es por la insostenible inseguridad que se vive día a día. ¿Cuál es esta insostenible inseguridad? De acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Violencia de Venezuela, cerca di 25. Insomma, lo spagnolo come si pronuncia in Venezuela è piuttosto comprensibile. Andreina sta spiegando quello che è successo. Lei lo spiega dalla Florida e poi conclude questo video con tutte le immagini e le foto delle proteste dicendo: per favore, diffondete questo video, postatelo, retweetatelo, mostratelo a tutti. C'è da dire una cosa: gli studenti sono importantissimi in questo momento in Venezuela perché non rispondono ai partiti politici, è per questo che li vedete in prima fila e la gente li ritiene delle persone molto sincere che dicono proprio quello che sta succedendo senza avere un'agenda dietro. E da un'altra parte hanno creato tutta questa serie di video, tutta questa serie di hashtag, anche perché adesso i giornali, non avendo carta, perché non ci sono i dollari e perciò tanti giornali hanno chiuso e altri hanno ridotto a 8 pagine dopo aver avuto 60, è un modo come un altro per comunicare. Tra l'altro una cosa che forse in Italia non tutti conoscono è che in realtà il Venezuela è un paese modernissimo, non stiamo parlando di un paese arretrato, di un paese in cui il tenore di vita fino a qualche anno fa poteva essere analogo a quello di un paese ricchissimo. Sai che c'è una barzelletta in Venezuela che dice che Dio ha creato tutto in Venezuela però poi ci ha voluto mettere i venezuelani, insomma si prendono anche un po' in giro perché insomma sono un popolo un po' particolare. Clara, effettivamente il Venezuela si conosce comunque poco, è una situazione alla quale il Venezuela non era abituato. Non era abituato prima di 16 anni fa, cioè tristemente negli ultimi 15 anni, da quando Chavez ha preso il potere e adesso Maduro nell'ultimo anno, questa è la realtà, cioè non si trova da mangiare, non si trova farina, non si trova zucchero, latte, non c'è carta igienica. So che può suonare paradossale. Purtroppo fino a pochi anni fa Venezuela era il quinto paese esportatore di petrolio. Eh sì. Io vorrei ascoltare un ultimo video insieme a te, Clara, il video di Leopoldo Lopez. Cominciamo ad ascoltare l'audio e poi lo commentiamo insieme. Se stanno vedendo questo video è perché già il Stato venezolano emitió una orden di cattura in mi contra. Quizás ya estoy detenido por Leopoldo López, oppositore, leader del partito Volontà Popolare, dice: se state vedendo questo video è perché mi hanno arrestato. Lui aveva girato questo video, poi questo video era pronto. Quando lui è stato arrestato, questo video è stato twittato. È particolarmente commovente. Io so che Clara è un video che tocca particolarmente, questo di Leopoldo López, che ha un suo account Twitter, @ Leopoldo López. Clara? Sì, perché tra l'altro è stato registrato nella clandestinità, perché per 2 giorni volevano arrestarlo, non si sapeva dove fosse, lui ha fatto questo video che poi ha twittato nel momento nel quale si è consegnato all'autorità, perché questa è una cosa importante, non è che l'hanno arrestato, lui è andato dalle autorità, ha detto: io sono qua, l'opzione era dar via dal Venezuela, io non ci vado, mi potete arrestare, mi state arrestando perché ho sognato per una Venezuela migliore. E in più, quando prima di consegnarsi ha parlato, perché c'era una grossa manifestazione, ha creato un nuovo hashtag, in spagnolo è el que se cansa pierde. Quello che si stanca perde, no? Sì, che adesso è diventato proprio una frase di battaglia che si vede sui social media, ma anche su tutte le manifestazioni. In più volevo aggiungere una cosa sui social media, che è stato il modo che i giornalisti, ma anche giovani, hanno trovato per comunicare con le star, che possono parlare per loro. Perché una delle prime persone a parlare della situazione in Venezuela è stata Madonna, che ha pubblicato su Instagram una foto del presidente Nicolás Maduro, dicendo: apparentemente Maduro non è familiare con la frase diritti umani, il fascismo è vivo in Venezuela. E da lì tutta una serie di star, compreso Jared Leto, quando domenica ha ricevuto il premio Oscar, ha chiesto per il Venezuela, ha ricordato il Venezuela. E questo è particolarmente importante. Clara, io vorrei invece dire agli ascoltatori, visto che magari non tutti sono conoscitori della lingua spagnola e non sanno come orientarsi, intanto di seguire Clara Martinez T, perché Clara è Clara Martinez Turco, e troveranno, twittate, retweetate, un sacco di notizie sul Venezuela. Quindi questo è importante, perché anche tu, insomma, cerchi di informare tutti via Twitter mantenendo un legame con il Venezuela. Clara, ti ringrazio davvero tanto di essere stata con noi e insomma speriamo che la situazione migliori, ma soprattutto che tutti riescano a davvero a dare il giusto peso e la giusta attenzione a questo paese che, come ci hai ricordato, ci è molto vicino. Clara, presto, buona Ciao. Serata. Grazie. E poi c'è chi dice che i social network sono poco più che un gioco. E invece, grazie a questi viaggi capiamo la potenza del mezzo. Non parliamo solo di sciocchezze. Se poi ci unisci la professionalità dei giornalisti, è uno strumento straordinario. Uno strumento straordinario. Daniele, abbiamo finito il tempo a Abbiamo finito la ventitresima. Abbiamo finito la ventitresima. No, Frigazebo era. Frigazebo, sì, Frigazebo. Quello era uno scherzo di carnevale. Vabbè, insomma, concludiamo questa puntata ringraziando Valeria Bernardi e anche Fabio Cantadori in regia. Perché entrambi. Un sacco di gente. Abbiamo parlato tantissimo di Radio 24 con i conduttori di Radio 24, questa volta ce lo siamo concesso, i nostri preferiti. E nulla, noi diamo appuntamento alla prossima puntata di Radio YouTube. E corriamo a farci una serie di selfie su Instagram con tutte le regole di Marta Cagnola, con la mano in alto, in basso. A perdifiato, a perdifiato. Alla prossima puntata. Ciao.